della lunghezza del mio membro genitale privato. La mia persona alquanto imbarazzata non accetta pregiudizi dall'ardore tanto desiderato. Zaira, Zaira bella, tu sei una stella, tu sei il mio amore. Purtroppo.